Sì, faccio una brevissima introduzione come nostro solito. Abbiamo ogni martedì in questa biblioteca un'iniziativa alle 17.30, ogni tanto anche il mercoledì, quindi già vi blocco subito le agende se avete piacere. La biblioteca ha questo compito di creare delle occasioni di incontro, di dialogo, di confronto per aprire nuovi scenari, nuovi interessi e nuove occasioni anche di incontro e di lettura. Abbiamo questa sera con noi due ospiti nuovi, che ringrazio. Sono Loretta Corradini, l'autrice del libro che verrà presentato, dal titolo molto particolare e intrigante, L'amore c'è, a piccoli passi, verso una possibile forma di guarigione e di libertà. L'accompagna in questa presentazione Stefano Dell'Antonio, che condivide con noi la passione per la lettura, per i libri e la vocazione per quello che è uno dei lavori più belli del mondo, che è quello del bibliotecario, vero? Ecco. Il bibliotecario è autorizzato a impicciarsi di tutto, a sapere tutto, a leggere tutto e se possibile anche a dare informazioni su tutto. Abbiamo proprio questo compito di vivere il quotidiano insieme a voi e è un po' un lavoro strano, no? Dai, diciamo la verità, vero? È proprio strano, sì, è quasi un po' un'investigazione, un po' un aiuto, insomma ci sono tante, a noi hanno chiesto delle cose incredibili, se facessi un elenco in questi anni di quello che ci hanno chiesto, vero? Diciamo, ti viene poi in mente di soccorrere sempre, però a volte non è possibile. Comunque è un lavoro che non annoia mai. E poi un grande ritorno della nostra Annika Schluderbacher, che ci accompagna in alcune occasioni nelle letture, dà voce e anima nei libri che presentiamo. Ricordo che la nostra biblioteca registra queste iniziative, quindi laddove voleste risentire, ecco, è possibile attraverso il nostro sito, ma anche chi era assente e non ha potuto partecipare può seguire e ascoltare. Abbiamo totalizzato oltre 650 registrazioni in questi 23 anni, quindi sta diventando quasi un patrimonio storico, anzi senza quasi, inizia a essere già una documentazione, ecco, a sua volta. E quindi siamo contenti, vi ricordo che, come dicevo prima, il martedì sempre qui ci sarà un'iniziativa alle 17.30, infatti il martedì prossimo ci sarà un altro libro, quello di Marco Pugliese con Paola Bessega, dedicato all'industria italiana del XX e XXI secolo, Visionari e Giganti. Invece domani avremo il primo incontro di questa stagione autunnale con il gruppo di lettura per la narrativa locale che si intitola Localmente, a cui siete tutte e tutti invitati. Se avete piacere, domani pomeriggio ci troviamo alle 17. 17 o 17.30? Adesso qui la regia. Alle 17, sì, comunque avete le locandine, le cartoline, trovate tutte le informazioni. Quindi tornando a noi, io ringrazio ancora l'autrice di aver accolto questo invito, ringrazio il collega Stefano Dell'Antonio di accompagnarci in questo percorso e Annika Schluderbacher che darà appunto voce a questo libro. Questi percorsi li abbiamo iniziati già quest'anno anche con altri libri che hanno dato voce anche a delle autobiografie, dove tante persone si sono messe anche a nudo di fronte al pubblico e hanno raccontato delle esperienze. Quindi per noi è anche interessante sempre trovare anche nel modello e nella narrazione degli altri un'occasione per capire come muoversi e come crescere tutti insieme. Quindi ringrazio l'autrice in particolare e ringrazio voi che avete aderito al nostro invito. Buona serata e ancora bocca al lupo. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Anche noi, anch'io, a nome di mio e di Loretta, ringraziamo subito chi ci ospita, quindi la dottoressa Yasmin Farina, per la Biblioteca Claudio Augusta, al centro Trevi, qui di Bolzano. E abbiamo avuto anche contatti nella realizzazione di questo evento con con la dottoressa Valeria Trevisan, che quindi un grazie anche a lei, ecco, insomma, volevamo ringraziare chi ci ha accolto qui e chi ci ha chiamati qui. Poi ringraziamo fin d'ora la lettrice Annika Schluderbacher, che leggerà dei brani dal libro. Il viaggio letterario che faremo oggi pomeriggio si svolgerà in questo modo. Ci sarà Annika che leggerà dei brani, dei brevi brani estratti dal libro, dove non è un romanzo, troveremo delle domande a cui Loretta già sul libro risponde. Loretta è lei l'autrice del libro. Al di là delle domande che pone il libro e della risposta che dà Loretta nel libro, io farò un'ulteriore domanda breve per poter uscire dal libro e venire più a contatto con l'autrice del libro. Loretta è una ragazza di Cavalese, come vedete, giovane, giovanile, è alla sua prima esperienza letteraria. Dopo anni di studio, di ricerca, di prove, di verifiche, di vittorie e di fallimenti, ha scritto questo libro, è uscito un anno fa circa, dove analizza la vita dal punto di vista dell'interiorità, dal punto di vista della realtà, cioè nel senso di reale, leggi vero. Quindi è un luogo, questo libro, dove cadono le maschere, dove cadono i tabù, i pregiudizi, e si vive una sorta di libertà dell'anima che, a detta di Loretta e della scuola che lei frequenta, è quella che porta non tanto ad esistere ma a vivere. E tutto il libro si dipana attorno a degli argomenti principali che hanno a che vedere con la vita, quali lo spirito, l'anima, il corpo, la mente, concetti anche filosofici, se vogliamo. Sono parole queste che vengono interpretate da 5.000 anni almeno, prima attraverso i simboli, poi attraverso la letteratura e soprattutto l'arte, la musica, eccetera. Questa volta tocca ancora una volta la parola. Noi siamo gente di biblioteca, un tempo ci chiamavano topi, ma orrenda quella parola. Noi siamo gente che ha a che vedere con i libri, che crede ancora quindi nella parola e nel museo della parola, perché oggi poi, al giorno d'oggi, le biblioteche sono anche dei, che lo vogliamo o no, sono anche dei piccoli musei della parola, visto che oggi si comunica in molti altri modi, forse più veloci, tecnologicamente più avanzati, però prendere la matita e sottolineare la frase, la parola, il punto di domanda, un riferimento, un etimo sul libro cartaceo, credo rimanga una cosa molto bella, soprattutto per noi che lo facciamo, ma anche da tramandare. Secondo me noi lasceremo a qualcuno anche i nostri libri cari, quelli che abbiamo tenuto per anni sul comodino, quelli che abbiamo tenuto per anni sul tavolo di casa, e lì ci sarà dentro una gran parte della nostra vita, perché è lì che abbiamo imparato, abbiamo appreso, abbiamo sottolineato, abbiamo creato scambi, abbiamo creato comunicazione, empatia, abbiamo gioito, abbiamo sofferto sui libri, ma soprattutto il libro è una scuola di vita, è una scuola che va oltre ad ogni didattica. E quindi, ecco, veniamo adesso al libro di Loretta. Nel suo libro, Nell'amore c'è tutto questo. La parola usata per descrivere, per capire, analizzare, sviscerare concetti difficili, che hanno però come leitmotiv, come traguardo, come obiettivo, la vita. Cioè la vita non sprecata, non passata così, però la vita come ricerca, la vita nella sua forma più semplice. Lei arriva quasi a dire che alle volte, soprattutto di questi tempi, è forse meglio togliere che aggiungere continuamente qualcosa. Lo credo anch'io, è anche il concetto della moderna architettura. Così come si costruisce una scuola, un edificio, una chiesa, un ponte, probabilmente costruiremo d'ora in poi anche le persone che siamo, che saremo e le persone che abbiamo attorno a noi. Detto questo, per entrare proprio nel vivo di questi concetti, io lascerei la parola un attimo a Loretta per un suo benvenuto a tutti voi e poi dopo incominceremo con la lettura e con le domande rituali. Grazie Stefano. Allora buonasera a tutti, benvenuti. Ringrazio anch'io la Biblioteca Claudia Augusta, il Centro Trevi, in particolar modo Jasmine, la dottoressa Valeria, Anika. E oggi l'auspicio dal mio punto di vista è che la presentazione del libro L'amore c'è possa indurre in voi presenti un motivo di riflessione e dal mio punto di vista sarebbe anche molto molto bello che questa presentazione vi possa portare a desiderare fortemente di entrare in comunicazione e in apertura con il vostro meraviglioso mondo interiore. Io auspico davvero questa cosa qua, perché le parole che sentirete e l'energia che spero vi arriverà potrebbe essere un buon veicolo affinché voi possiate aprirvi a voi stessi e desiderare di sentire dentro di voi qualcosa di veramente speciale che c'è in tutti noi. Questo è il mio auspicio. Prego. La differenza tra il dire e il fare è l'esperienza che si fa. È da questa che sono partita e solo dopo un'attenta ed accurata analisi sotto ogni punto di vista della mia realtà interiore, dell'ascolto di me stessa, del dolore, del disagio, della confusione, durato molti anni, ho tirato fuori anche il contatto con chi sono veramente in profondità, con la mia anima, con la sua impronta e con lo spirito, rivelando a me stessa il valore e l'autenticità della vita con tutto l'amore che la inonda. Con questo libro desidero portare a tutti voi la mia esperienza, come se fosse una sorta di possibilità concreta di trasformazione di una parte della vita, o come l'ho chiamata nello stesso titolo, una possibile forma di guarigione e di libertà. Non c'è quindi da parte mia nessuna pretesa di possedere alcuna verità in tasca, ma solo la volontà di raccontare, di raccontarmi, con autenticità e amore. La mia è la storia di una persona che è riuscita a trasformare l'esperienza dolorosa della sua infanzia in qualcosa di positivo, di significativo, rivelando a se stessa chi è veramente e trovando la vera motivazione della sua vita, la forza, la consapevolezza, la serenità, la gioia di vivere. Le domande di Alessia Intilisano sono state il mezzo per potermi raccontare nella mia più profonda intimità di donna, di moglie, di mamma, di figlia, di ricercatrice e di anima in cammino. Cavalese, primavera 2023, Loretta Corradini. Grazie. Come avete sentito, Cavalese, quindi un luogo non lontano da qui, anzi molto più vicino di quel che si possa credere, dove l'arte è sempre stata di casa, peraltro, sia l'arte pittorica, ma anche quella musicale, anche quella della scrittura. Una delle biblioteche più antiche della regione l'abbiamo a Cavalese, nei pressi del Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, una biblioteca con numerose cinquecentine, incunaboli, volumi rinascimentali importanti. E quindi Cavalese, insomma, lei, Loretta, viene da lì, un luogo evidentemente molto, molto, molto ricco di cultura, di comunicazione, di storia, chiaramente. E credo che il luogo, la natura del luogo abbia influenzato molto Loretta, anche perché la vedo andare molto in montagna, in giro a prati, boschi, montagne. Quindi la natura per lei è una fonte di ispirazione, chiaramente, per arrivare a capire i concetti chiave che noi oggi andremo ad esporre qui, e cioè lo spirito, l'anima ed il rapporto corpo-mente. Nel libro poi troveremo altre parole chiave, troveremo anche delle parole simbolo, quali donna spirito, quale drago trasparente, cioè tutti i luoghi questi che hanno un nome, ma in sé sono dei luoghi, luoghi dove si esplora, dove si analizza la verità, dove si cerca e spesso si trova qualcosa. Incomincerei proprio quindi con la prima parte, che è quella che riguarda lo spirito. Nella nostra unicità di esseri umani vive e si nasconde il segreto del nostro valore, del nostro ruolo originario, di ciò che siamo e del nostro potere personale. Questo segreto viene svelato a noi stessi e ci apre agli orizzonti della vita e al suo mistero. Secondo il tuo punto di vista, come può l'essere umano comprendere veramente fino in fondo la propria storia, il proprio vissuto, tenerne conto e contemporaneamente vivere impeccabilmente la propria vita, realizzarsi, espandersi, evolvere, insomma, in una parola, farcela? Come può l'essere umano cogliere il vero senso della propria esistenza, il vero disegno della propria vita? Partendo dal proprio spirito. Partire dal proprio spirito significa lavorare sodo per riuscire ad individuare ogni singolo pezzo del puzzle, fino ad essere in grado di ricostruire l'intera costellazione della propria incarnazione e arrivare a cogliere il significato generale, il meccanismo globale, la leva, l'opportunità verso l'evoluzione del proprio disegno di vita. Al contrario, rimanendo incastrati dentro agli eventi singoli e alle difficoltà, non si potrà arrivare alla visione generale, a questo disegno globale che può mostrare il vero senso delle esperienze dell'essere umano. Com'è possibile arrivare a questa ricomposizione e alla conseguente comprensione? Qual è l'esperienza che porti? Ci si può arrivare riaprendo il contatto energetico con il proprio sentire per accedere all'ascolto delle dimensioni interiori e al ricordo di chi siamo, srotolando la memoria energetica che vive nelle nostre cellule. Il primo passo è quello di imparare a distinguere l'atto del pensare da quello del sentire. Quindi spirito, dal latino soffio, respiro, aria. In filosofia spirito prende il concetto più forse di anima, intelletto, mente. Lo spirito quindi una cosa eterea, però anche molto reale, anche molto presente. Bisogna anche crederci, chiaramente, bisogna sentirlo. E anche quando non ci si crede, quando non lo si sente, lo spirito c'è, comunque c'è, come il soffio c'è. Addirittura lo spirito c'è anche quando il soffio non c'è più. Quindi la domanda che pongo a Loretta per spiegarci, per introdurci nel regno dello spirito, se vogliamo chiamarlo così, è questa. Le ho scritte non perché non mi ricordo le cose, ma perché stiamo parlando di cose molto specifiche, molto precise, dove non si possono usare parole sbagliate nel posto sbagliato. quindi ho cercato quasi come un rigo musicale di mettere le note al loro posto. È solo per questo che ho scritto le domande, per essere molto preciso lì dove voglio poi arrivare o dove cerco di arrivare con la domanda per avere poi una altrettanto precisa risposta. Dalle prime pagine del tuo libro si evince che il significato più profondo della vita e dell'esistenza si può cogliere attraverso lo spirito, il soffio, respiro appunto. Qual è la via che porta allo spirito e con quale strumento o linguaggio possiamo cogliere e vivere lo spirito dello spirito? Con quali strumenti possiamo cogliere e vivere lo spirito dello spirito? Che domanda, Stefano. Allora, come ha letto Anika nell'introduzione, quello che io posso portarvi è la mia esperienza, che non ha nessuna pretesa di essere una verità assoluta, ma è un'esperienza empirica reale che io ho vissuto veramente. E è questo il vero valore che io porto attraverso il mio libro. Allora, per l'esperienza che ho vissuto io empiricamente, le porte dello spirito si aprono a partire da dentro, a partire dalla dimensione del cuore. Siamo forse sempre abituati a provare a cogliere lo spirito dall'esterno, dalla natura o dalla nostra cultura religiosa, dalle nostre credenze, dal nostro desiderio di sentire lo spirito. Dalla esperienza empirica proprio che ho vissuto io, le porte dello spirito partono da dentro, dalla dimensione del cuore. In questo senso, noi come esseri umani siamo degli esseri molto complessi e siamo formati da tantissime parti interne che formano il nostro mondo intimo, la nostra interiorità. Possiamo immaginarla come un conglomerato interno di energia. Questo forse è più facile per tutti noi. Nel nostro mondo interno noi troviamo i nostri pensieri, le nostre emozioni, i nostri sentimenti, quelli che sono i nostri talenti, le nostre predisposizioni, le nostre vulnerabilità, il nostro maschile, il nostro femminile, la nostra ombra, la nostra luce, tutti i ricordi delle nostre esperienze, di quello che abbiamo vissuto, il nostro vissuto interno. Provate a immaginare dentro di noi, in questo mondo intimo, quanto c'è di umano. C'è tantissimo. E tutto quello che c'è forma anche la nostra personalità. Allora, il lavoro che ho fatto io, siccome partivo più o meno all'età di 30 anni, da una situazione personale dove sentivo, pensavo, provavo, immaginavo, ma era tutto un insieme molto, molto pieno e potrei dire quasi confuso. Allora ho iniziato con molta calma a cercare di distinguere le mie parti interiori, quali erano i miei pensieri che portavano le mie emozioni, quali erano i miei sentimenti, quali erano le mie sensazioni forti, quali erano le mie vulnerabilità. Ho cercato di incontrarle attraverso un preciso laboratorio che in 2 minuti vi descrivo. Io ho partecipato a tanti tanti laboratori nei quali l'insegnante di riferimento, in questo caso un maestro spirituale, evocava energeticamente la frequenza di una delle nostre parti interiori. Facciamo, che ne so, un esempio molto facile. Evocava una situazione di paura, ma erano 1000 altre, Ne ho fatta una perché è la più facile. A quel punto io avevo la possibilità di ascoltare attraverso me stessa la mia paura. E quindi avevo la possibilità di rendermi conto come vivevo quella paura, se ero aperta, se ero chiusa, se andavo incontro alla paura oppure scappavo, se la paura mi vinceva oppure io ero determinata a non tenerne conto. In questo laboratorio io ho incominciato una per una con le mie parti interiori ad incontrarle energeticamente. E questo che cosa ha prodotto in me? Che piano piano dentro ho fatto ordine. Sapevo poi, vivendo giorno per giorno, in diretta, come adesso in questo momento che sono qui insieme a voi, sapevo sempre che cosa stava provando il mio mondo intimo. Come io, partendo dall'interno, mi rapportavo verso l'esterno che stavo incontrando. Allora, come dicevo prima, studiando la mia interiorità in tutte le sue parti, ho incontrato piano piano tutti i vari strati di me stessa e sono andata sempre più in profondità. Che cosa è accaduto? Che oltre ad incontrare tutti i miei vissuti, anche quelli più dolorosi, anche quelli più complessi, anche quelli veramente difficili, che cosa ho incontrato? Con mia grande sorpresa, ho incontrato me. Perché andando a studiare tutti i miei strati che rappresentavano il mio vissuto, con tutto quello che c'era in mezzo, io piano piano avevo la forza di diventare sempre più neutrale. Perché neutrale? Perché se io ho tante cose che provo dentro e queste mi fagocitano, per usare un termine forte, io non riesco a sentire che cosa ho veramente in profondità, perché sono presa tanto da tutto quello che è nei strati intorno. Poi, quando ho iniziato a comprendermi e fare ordine, sono andata più in profondità e ho incontrato il mio essere. E che cos'è l'essere? È lo spirito. È come una situazione di profonda neutralità, dove la personalità non riesce più a dominare. La personalità non domina, quindi la morbidezza e la flessibilità interne permettono di andare più in profondità, e in questa profondità si può incontrare lo spirito. Sono proprio delle porte dall'interno che si aprono verso lo spirito. E come finiva la domanda? La domanda finiva come qual è il linguaggio con il quale possiamo avvicinarci allo spirito? Allora, il linguaggio che ho provato io e che sperimento ogni giorno nella mia vita è quello di ascoltare quello che c'è dentro di me e quello che c'è fuori di me attraverso uno stato di neutralità. Lo stato di neutralità significa andare oltre la personalità, tutto quello che è personale. E quando si va oltre il personale in maniera neutra, si riesce a incontrare, attraverso la percezione, la presenza costante dello spirito dentro e fuori di noi. Per me la via è stata questa, e tutt'oggi, mentre io riesco ad oltrepassare la personalità mia, il mio personale, entro in una frequenza transpersonale, quella frequenza dove noi siamo tutti uniti e tutti assieme in una cosa unica. Invece nella parte intima, nella parte personale, ognuno di noi è individuale. Quindi io incontro lo spirito quando passo oltre al mio personale e incontro la frequenza del tutto. Qua e là nel libro poi compare la donna spirito. Sì. Chi è e come e quando appare? Cioè perché la donna spirito, chi è e quando appare? Allora, questa sera qui con voi per me è assolutamente naturale parlare della donna spirito collegandola alla grande madre. a questa figura femminile che nella nostra cultura religiosa chiamiamo la Madonna Maria, e che nel mondo dell'energia, il mondo che ho studiato io, invece corrisponde allo spirito del femminile, che corrisponde alla presenza dell'amore. L'amore che c'è e inonda tutto quello che esiste. L'amore c'è e lo porta alla grande madre, o Maria, come vogliamo definirla. Quello che accade a noi esseri umani è che attraverso la modalità con la quale funzioniamo, noi che cosa facciamo senza renderci conto? Ci dividiamo, creiamo una separazione fra noi e questa frequenza dell'amore che esiste all'esterno dappertutto. E quindi quando noi mettiamo in atto attraverso la nostra mente duale e attraverso un nostro amico interno che si chiama il divisore, il separatore, noi abbiamo la sensazione di essere separati e in quell'istante noi siamo separati anche dall'amore. Idealmente separati, perché in realtà noi viviamo costantemente inondati dall'amore. È la nostra percezione interna che ci fa sentire divisi, separati e incontrare l'odio, incontrare il rancore, incontrare la divisione da tanti altri punti di vista. La donna spirito è questo spirito del femminile che è l'amore. Possiamo definirlo in tanti modi, anche Dio, possiamo definirlo in tanti modi. Ma dal punto di vista dell'energia, vi ripeto, io ho avuto queste esperienze proprio dal punto di vista empirico. Quando tu con le tue dimensioni interiori bypassi la tua personalità, ti ritrovi improvvisamente in uno stato d'amore unico e ti accorgi quando poi attraverso la tua personalità, attraverso la mente duale e attraverso il tuo divisore vai dall'altra parte. Sentendoti esporre questi concetti tutt'altro che facili, mi è venuto spontaneo pensare e quindi ancora chiedere un'altra cosa, insomma. Capisco che la cosa prenda vita da dentro di noi, cioè da io singolo, però è molto probabile che dall'io singolo ci sia uno stesso, chiamiamolo così, motore, o meglio, chiamiamolo uno stesso soffio, uno stesso spirito che agisca anche a livello collettivo. Cosa ne pensi? Certo, noi siamo individui e contestualmente siamo sempre parte di un tutto. Questo tutto ha uno spirito unico e ha anche un'anima collettiva. Quindi ognuno di noi vive ogni istante della propria esistenza qui sulla Terra la propria anima e contestualmente un'anima collettiva. È uno stato dell'essere, un campo energetico, una frequenza energetica dove tutti noi esseri umani siamo sullo stesso piano. Vi faccio un esempio. Io empiricamente l'ho vissuto a Cavalese quando abbiamo avuto Vaia. E in quel momento tutti i cittadini del mio paese stavano vivendo la stessa difficoltà. C'era un vento che stava distruggendo tutto. Gli alberi cadevano uno dopo l'altro, i tetti volavano, i ponti sono saltati. In quel momento le personalità individuali di ognuno di noi sono scese per lasciare il posto a qualcosa che riguardava tutti. Siamo diventati tutti sullo stesso piano e ci siamo aiutati l'un l'altro. Siamo diventati un'anima collettiva. È qualcosa che unisce tutti, che ci fa vivere questa frequenza energetica. Non è facile sentirlo. Tante volte noi siamo uniti da uno scopo comune. o desideriamo fortemente sentire la nostra anima e questo ci porta poi a desiderare di sentire l'anima collettiva. Non sono esperienze immediate, ma sono esperienze che la vita, se noi riusciamo a darle fiducia, ci accompagna per poterle vivere. Beh, trovo bello questo legame di un mondo interiore dell'anima con quello biologico naturale della tempesta Vaia. Vaia è stato quel vento che ha distrutto 30 milioni di alberi, no? Nel nord-est italiano. Bisogna dire che dal punto di vista biologico, e forse dovremmo imparare anche noi qualcosa lì, se dal punto di vista, se come la vediamo noi uomini è stato un disastro, è stato chiamato così, dal punto di vista biologico invece è stato un toccasana. Cioè è stato tutto il contrario di una malattia. Creerà un bosco nuovo, era ora, evidentemente nel corso dei secoli sulla Terra, creerà un bosco nuovo, un modo di pensiero naturale e biologico nuovo che potrebbe essere un segnale anche per noi. Credo i tempi sono maturi per cambiare un po'. Dovremmo anche noi forse creare un modo di pensare, di vivere, di comunicare, un modo nuovo, perché così come stiamo facendo, credo, non va proprio tutto molto bene. Gli alberi, l'anima collettiva, la vivono. Sottoterra le radici di tutti gli alberi sono collegate energeticamente. Gli alberi sono in grado di comunicare dal Trentino all'America. Energeticamente, attraverso una rete sotterranea che passa dalle loro radici, loro sono in grado di comunicare e sono in grado di portare avanti un'anima collettiva. Perché? Loro non hanno la mente, è più facile per loro, sono tutti uniti, pensate che bello. Sì, hanno veramente sviluppato le piante, gli alberi in generale, un loro modo di pensare ed è provato che comunicano, questo ormai è assolutamente sicuro. L'avessimo detto 20-30 anni fa a scuola, a scienze naturali, ci avrebbero bocciati tutti. Oggi invece è proprio provato. Ok, direi che insomma, avete sentito, non stiamo parlando di cose leggere, sono concetti profondi, sono concetti difficili, che però Loretta, come sentite, vede in modo molto chiaro, molto, molto lineare, molto pulito. E ascoltarla è un po' come andare in una scuola, ecco, insomma, io credo che gli antichi filosofi si trovavano più o meno nello stesso numero di noi oggi ad ascoltare un maestro e insomma mi viene da pensare appunto all'Accademia, a queste scuole un po' particolari dove il pensiero però produceva altro pensiero, produceva empatia, dialogo, comunicazione e anche direi, posso esagerare, ma chiamarli proprio dei rapporti spirituali, perché insomma stiamo parlando di spirito, anima, ecco, e siamo arrivati alla seconda parola chiave di questa esposizione letteraria e quindi invito Anika ad esporci adesso quanto Loretta ha scritto attorno al concetto di anima. Come definiresti l'interiorità dell'essere umano? L'interiorità dell'essere umano è un mondo energetico, magico e misterioso. Vive attivamente tutto ciò che vibra nel suo grembo ed è in continuo movimento. È mossa da leggi che non sono quelle della razionalità. Poi all'improvviso, quando tutto è pronto e maturo, produce dei forti cambiamenti di assetto, che si possono anche chiamare veri passaggi di stato generale e di funzionamento. Generalmente sono accompagnati dalla consapevolezza, dalla coscienza di ciò che sta accadendo, ma non è detto, tante volte rimangono momenti segreti e misteriosi. Qui abbiamo un po' cambiato leggermente, abbiamo fatto una piccola deviazione, ecco, sul nostro percorso. Qua però torniamo a quanto abbiamo detto poco fa. E qui pongo una domanda un po' lunga nell'iter interrogativo, però spero abbastanza chiara. Abbiamo appena detto che oggi viviamo tempi piuttosto complessi, violenti, tristi, fragili, dove la tendenza all'isolamento emerge sempre di più e dove le emozioni vengono trattate come merci. Nel tuo libro, però, Loretta, viene svelata la potenza di uno spazio intimo che appartiene a tutti noi e all'anima dell'universo. Quindi, qui e ora, quali sono le vie del miglioramento personale e collettivo, le possibili strade energetiche per superare disagi, turbamenti, paure ed ombre ed affrontare il domani con una possibile rinnovata serenità? Quali sono? Domanda complessa. Difficilina. Ma allora, io sono sempre molto entusiasta di poter parlare del nostro meraviglioso mondo interiore. Ognuno di noi ha all'interno un mondo magico. Perché dico magico? È magico nel senso che le sue leggi e la sua modalità di funzionare sono completamente diverse da quelle della nostra mente e per questo per noi diventa magico. All'interno di noi tutto ciò che noi proviamo, il nostro vissuto, ciò che sentiamo, ciò che fa parte dei nostri sentimenti, ciò che fa parte dei nostri ricordi, ciò che fa parte del nostro sentire. Penso che per tutti noi sia molto chiaro che ci accade di sentire emozioni, ma ci accade anche di sentire delle cose molto molto più particolari, molto più profonde. Quello che noi possiamo sentire attraverso il nostro mondo interiore, se abbiamo l'interesse di assumerci la responsabilità di quello che sentiamo dentro, e cioè da partire dal presupposto che noi abbiamo un mondo interiore individuale, l'esterno, tutto intorno a noi, è molto ampio e molto forte e potenzialmente ha molta più forza rispetto al mondo individuale. In realtà però, se noi riusciamo a dare il giusto valore al nostro mondo interiore, piano piano, via via che lo conosciamo, ci possiamo rendere conto che è molto più potente dell'esterno. Il nostro mondo interiore è molto più potente dell'esterno. Il nostro mondo magico è in grado di fare delle cose grandissime e è in grado di farci vivere una serenità, un'armonia e un senso della vita altissimi. Se noi avessimo, come è stato nel mio caso, interesse a conoscere la nostra interiorità, ci potremmo rendere conto che imparare a conoscere quello che c'è dentro ci porta via via a vivere la relazione con l'esterno in maniera più strutturata, in maniera più morbida e in maniera più costruttiva. Dico meglio, il mondo interiore è complesso e ha delle possibilità enormi, grandissime, è molto potente e molto interessante. All'esterno, con l'esterno, noi, entrando in relazione con l'esterno, incontriamo, ditemi voi se sbaglio, la maggior parte delle nostre difficoltà. Quindi, più noi riusciamo a conoscere la relazione con il nostro interno, la relazione nostra con noi, più noi riusciamo a costruire con l'esterno una relazione armoniosa e costruttiva. Quindi, rispondendo alla domanda dello Stefano, come si fa a migliorare il mondo terribile nel quale ci troviamo, fra guerre, fra divisione fra le persone, sapete anche voi tutto quello che c'è, insomma, sapete meglio di me. Come si fa? Dal mio punto di vista, la via più credibile è quella di conoscere noi stessi. Se noi conosciamo noi stessi, siamo in grado di porci verso l'esterno in maniera costruttiva, incisiva, chiara, sappiamo chi siamo e sappiamo dove vogliamo andare. Conosciamo le nostre forze, se conosciamo noi stessi, conosciamo le nostre vulnerabilità. È stato molto importante per me incontrare in un laboratorio in maniera empirica la mia vulnerabilità. È stato molto importante perché mi ha fatto rendere conto di quant'è importante accogliere, accettare, entrare in relazione con la mia vulnerabilità. Se io non avessi accolto la mia vulnerabilità, non avrei scritto il mio libro e non avrei incontrato il campo energetico vasto dell'amore. È stato attraverso la vulnerabilità che ho avuto questa opportunità e ringrazio veramente me stessa per aver avuto il coraggio di andarci incontro, senza più vergognarmi, andando oltre la paura che provavo, andando oltre la titubanza, l'ignoto che mi metteva di fronte. Quando ho compreso che la vulnerabilità che abita dentro di me è nata per l'esperienza nell'infanzia che ho avuto, per carità, ma è una parte di me identica alla parte della forza, alla parte dell'intraprendenza, alla parte del coraggio, alla parte della lucidità, alla parte della conoscenza che ho di me stessa. La vulnerabilità, la mia vulnerabilità, ha lo stesso valore per me. Questa mi ha portato a incontrare di nuovo la bellezza della mia bambina interiore. Se non avessi avuto questo interesse, non avrei potuto incontrare il mondo meraviglioso che la mia bambina interiore mi porta ogni giorno. Adesso mi sono persa da che era partita. Perché questo mondo interiore mi... Ecco, adesso concludo. Avere la possibilità di conoscere se stessi crea automaticamente la possibilità di avere rispetto per noi stessi, amore per noi stessi, curiosità verso noi stessi e anche innamoramento verso noi stessi. E se con questo stato d'animo, con questo animo noi ci relazioniamo con gli altri, voi potete immaginare come potrebbe e sta già incominciando a cambiare il mondo. Quando una persona si assume la responsabilità con se stessa di quello che ha dentro e prova a non proiettarlo sull'altro, avvengono dei miracoli energetici bellissimi. Questa è una cosa difficile che ho detto. Quando una persona decide di assumersi la responsabilità di quello che prova, senza proiettarlo sull'esterno, senza dare la colpa all'esterno, ma diventando molto molto interessata a cosa si è mosso dentro quando l'altro l'ha offesa, quando l'altro l'ha trattata male, quando l'altro ha utilizzato la slealtà. Se io decido di provare a assumermi la responsabilità, incontro cosa in me stessa? Qualcosa che non conosco di me, che è chiamata comunemente l'ombra. A quel punto io approfondisco questa mia ombra, la incontro e cerco di ascoltare se è stata lei a farmi sentire così male o se veramente la persona che mi ha offeso aveva il potere di farmi stare male. No, non è stata la persona. La persona è stata una leva che mi ha offeso, oppure che mi ha fatto un brutto tiro, oppure tutte le cose che sappiamo ogni giorno. In realtà io ho un mondo interiore chiaro e potente. E quando io comprendo che cosa si è mosso dentro di me quando quella persona ha fatto da leva, so che quella cosa appartiene a me e la incontro in un altro modo, non dando potere all'esterno su quello che provo io. Spero di avervi dato l'idea di quello che sto dicendo. Poi magari nelle domande. Sì, poi dopo magari risponderai a delle domande che ti verranno fatte. Io lascerei la parola ad Anika adesso che prosegue poi a parlare ancora del tuo concetto di anima. In un giorno che pareva dei più normali, accettai con molta leggerezza un invito interiore alla resa. Udì in quell'istante magico il canto della vita che si manifestò in un aspettato buon umore. Che cos'è oggi per te amare? Oggi nel mio cuore amare significa rinunciare a capire e affidarmi completamente al sentire. L'amore c'è ed è sempre possibile aprirgli la porta. La sua energia permette a noi esseri umani di accoglierci e di accogliere gli altri esseri umani. L'accettazione ci fa scorrere negli eventi della vita e questa consapevolezza alimenta la nostra forza e la nostra neutralità, sollevandoci dal giudizio. Ricordare la sensazione chiara dell'innamoramento verso se stessi, verso la vita, verso gli altri, non proviene da nessun evento o successo personale. Semplicemente esiste di per sé, dentro di sé, ed è una splendida realtà. Vivo in Trentino, in un paese con un'alta qualità di vita, e spesso, quando in estate, cercando il fresco, me ne sto a valle, seduta o distesa tranquillamente, al canto al torrente Avisio, percepisco arrivare dalle splendide montagne intorno a me la loro possente presenza, che in modo del tutto naturale forma dei confini di protezione ben chiari per noi esseri umani. Arriva energeticamente dalle loro rocce calcaree e porfiriche una forte emanazione energetica di stabilità, di severità, di autenticità, di serietà, di sobrietà, di essenzialità, ma anche di silenzioso mistero. La sensazione di morbidezza e di scorrevolezza arriva invece dall'acqua. È come sentire che tutto va, tutto passa, scorre, si trasforma e si può veramente arrivare lontano. Ascolto la presenza dell'acqua che scorre all'interno delle grandi montagne e in superficie nei ruscelli come nel torrente accanto a me. La concretezza e la fertilità arrivano dal terriccio, la particolarità dei muschi, dei licheni, la qualità e l'abbondanza dagli alberi della foresta, gli abeti, che con il loro legno prezioso e la loro capacità di pulire l'aria rendono unico il territorio montano. Sto lì ferma e arriva energia dalle piante di ogni tipo, dai cespugli verdi e fioriti di ogni varietà, dalle erbe aromatiche, commestibili, officinali, medicinali o spontanee, come l'erba, dalla bellezza dei fiori, dalla proprietà dei funghi commestibili o fatali, dagli animali di ogni razza e grandezza, dai profumi che arrivano dall'aria, dagli odori. Attraverso tutta questa energia che vibra in un grande equilibrio generale, come fosse un'orchestra ben diretta, la grande madre natura invia verso valle i mille segreti del nutrimento della terra, della sua femminilità, e io accolgo, avvolta dal mantello della neutralità, ogni piccola traccia di questo linguaggio per farlo mio, per entrarci in contatto, per farlo scorrere nelle mie vene, nei miei tessuti, ed estare così la mia memoria cellulare, destare la mia visione, la mia creatività, la mia fiducia, la mia amorevolezza, ricordo di chi sono nella terra dove sono nata. Anche questo significa amare. Sì, natura quindi come parte, come strada maestra direi, ecco, per raggiungere noi stessi e per farci capire chi siamo e dove andiamo. Ora, parlando di anima, tu usi alcune parole chiave per esprimere la sua profondità e usi parole che forse non hanno un nesso diretto con l'anima. O forse sì, quali? Morte, amore, energia, parole pesanti, profonde. Quando e come accadono gli incontri dell'anima e con l'anima? Quando accadono gli incontri con l'anima e dell'anima? penso di poter dire che accadono quando lo si desidera veramente, quando dentro di noi c'è una curiosità autentica per poter incontrare, e dico dal mio punto di vista energeticamente incontrare, l'impronta della nostra anima. L'impronta della nostra anima è un campo energetico, un nostro bagaglio, che ci contraddistingue da chiunque altro. Ognuno di noi ha un'impronta d'anima a sé, che ci aiuta ad arrivare a capire e a sentire chi siamo. Provate a chiedere a voi stessi se avete la sensazione delle qualità che può avere la vostra frequenza d'anima. Provate a chiederlo a voi stesse. Sentire, avere la possibilità di incontrare la frequenza della propria anima significa aver incontrato nella propria vita i propri talenti. Significa aver incontrato quella via che ci spinge a fare delle cose senza nessuna fatica. È quella frequenza d'anima che ci fa sentire la felicità, che noi stiamo lavando i piatti e lo stiamo facendo attraverso la frequenza di chi siamo, e questo ci dà felicità. Incontrare la frequenza della nostra anima significa sentire il sapore di chi siamo, perché ognuno di noi è unico, e è questo che ci rende felici, perché tante persone nel nostro tempo passano il loro tempo a cercare di essere migliori degli altri, a distinguersi nel lavoro o in quello che fanno o nella donna, nell'uomo che sposano, per essere qualcuno, eccellere nella vita per essere qualcuno, quando incontrare la frequenza della propria anima ci fa essere chi siamo, che è ben altro. Incontrare questa frequenza ci porta in uno stato d'animo dove non c'è bisogno di confrontarsi con gli altri, non te ne importa più nulla, perché sei felice di aver incontrato chi sei. Questo ti dà soddisfazione in ogni cosa che fai, perché quando la fai ci metti chi sei, e quindi diventa quella cosa con il tuo sapore, con il tuo odore, con l'amore che metti per la vita, con l'amore che metti per te stesso, perché tu hai incontrato la tua frequenza d'anima, e è questo che ti distingue da tutti gli altri, non il tuo percorso lavorativo o l'uomo o la donna che hai sposato. Incontrare il tuo mondo interno, il tuo sentire, e via via l'impronta della tua anima con tutte le sue caratteristiche ti rende felice e dà senso alla vita. Ti dà appagamento. Ti dà, come dire, io ho incontrato l'impronta, lo stampo di chi sono. E quindi che cosa accade? Che ti senti a casa, perché ti senti in te stesso, non nei modelli che l'esterno ti impone, non nelle idee che la tua educazione ti ha portato, non nei desideri che la tua società ti porta ad avere. Trovare l'impronta della tua anima significa incontrare la gioia, il senso della vita, il vero senso della vita. A quel punto l'innamoramento verso te stesso ti rende felice. E quando tu ti rapporti con gli altri, sei felice. E loro ti risponderanno in un altro modo. Mi sono persa di nuovo, che mi hai domandato? Domanda, come accadono gli incontri dell'anima e con l'anima? Allora, dicevo, come accadono? Accadono partendo da un desiderio forte di incontrare se stessi. È come dire, ho intorno a me un mondo molto molto complesso, tante persone, tante situazioni, tante relazioni, tante necessità, tanti conflitti, il controllo, il giudizio, ho intorno a me tante cose, ma se io desidero profondamente incontrare me stesso, la vita mi aiuta e mi mette davanti in maniera molto semplice delle opportunità che mi aiuteranno ad andare verso me stesso. A me è accaduto incontrando casualmente un maestro spirituale. A voi magari può accadere, se lo desiderate veramente, attraverso la vostra vicina di casa oppure l'amica della vostra bambina o, che ne so, un libro particolare che vi arriva oppure un film che vi apre il mondo interno. Ma deve partire dal desiderio. Il desiderio di avere il coraggio di mettere davanti nella vostra vita la conoscenza di chi siete. Ma chi siete veramente, al di là della personalità. Volevo dirvi che le immagini che state scorrendo sono dei quadri, delle figure che compaiono nel libro e sono degli acquerelli che ha fatto lei stessa. È un'altra espressione di comunicazione, appunto, dove però cerca di comunicare appunto tutti i concetti, le sensazioni, le emozioni che sta descrivendo. Ecco, vi racconto questa cosa. Attraverso questi laboratori di energia nei quali io incontro il mio mondo interiore, specifici, perché poi lo incontro nella vita di tutti i giorni, accade che io mi permetto di avere delle profonde aperture verso me stessa. Mi concedo di aprirmi a me, non ai maestri spirituali, di aprirmi a me. E quando io apro a me stessa con grande fiducia e senza nessuna aspettativa, mi succede di vivere degli stati d'animo veramente bellissimi. Ho delle sensazioni, delle percezioni, delle partecipazioni alla vita che sono particolari. Questo accade a tutti, chiaramente, non solo nei laboratori energetici. Ma quando il mio mondo interiore si apre e mi mostra la sua meraviglia, ho imparato a prendere una tela di cotone, a buttare giù il colore e a cercare di esprimere quello che sto vivendo attraverso il colore. Dopodiché passo all'utilizzo della parola e scrivo, descrivo minuziosamente che cosa sto vivendo. E a questo proposito vi racconto com'è andata, spero di non annoiarvi, la prima volta che ho avuto il coraggio di affrontare l'abbandono forte, fortissimo che io ho vissuto nella mia infanzia. Per tanti anni ho fatto dei progressivi avvicinamenti a questo, possiamo definirlo, buco nero che sentivo dentro di me. Facevo degli avvicinamenti graduali. A un certo punto, quando la mia maturazione aveva una certa consistenza, ho sentito il coraggio dentro di me di stare nella frequenza dell'abbandono che ho dentro. E quel giorno lì, per fortuna ero da sola in casa, io ho una famiglia abbastanza corposa, non c'era nessuno quel giorno, sono andata nella mia stanza studio, mi sono seduta e ho lasciato tutto il mio corpo tremare fortemente, perché stavamo in quello che c'era. L'ennesima leva della vita mi aveva portato a ricontattare questa frequenza interna, l'abbandono. E quel giorno lì, invece di scappare, invece di cercare rifugio nelle mie persone di riferimento, invece di cercare di uscire con qualche bella musica o qualche bello strumento che avevo imparato negli anni a utilizzare per farmi aiutare, quel giorno lì sono stata con lui, con l'abbandono. Il mio corpo tremava come le foglie d'autunno sugli alberi e tutto crollava. La paura era fortissima e io stavo lì, senza fare nulla, ferma, senza fare nulla. E probabilmente dopo pochissimi minuti, che per me erano diventati degli istanti lunghi, ho preso in mano la penna e ho incominciato a scrivere minuziosamente tutto quello che stavo vivendo, il mio vissuto dentro il campo energetico dell'abbandono. Scrivendo, sono uscita con grande naturalezza da questo stato. Dopodiché ho preso una tela di cotone e ho impresso attraverso il colore quello che avevo vissuto, perché 10 minuti dopo la mia vita era già altro. Potete immaginare una persona che improvvisamente impara ad accogliere un'energia di questo tipo e a starci e dopo 10 minuti tornare con uno stato d'animo normale. Per me questa è stata un'esperienza davvero, come dire, adesso ho imparato una modalità sana per stare in quello che c'è dentro di me. Beh, ho trovato molto, molto profonda, molto bella questa descrizione. Mi verrebbe da coniare quasi un verbo nuovo, perché quello che ha fatto, questo mi ha colpito molto, il fatto che con la scrittura lei abbia portato fuori, no? Abbia gettato via, buttato. Quindi il verbo nuovo che potremmo creare stasera sarebbe escrivere. Escrivere, secondo me, è perfetto. Non l'ho mai sentito o pensato prima, ma escrivere, cioè con la scrittura, siamo in una biblioteca, è anche per questo che insisto, ma escrivere nel suo caso è stato un espellere, un buttar fuori, buttar via, un viaggio quindi verso l'esterno che però porta dentro. Se dovessi poi invece dire due parole su quello che sul discorso poi artistico che ha fatto, invece troviamo sempre colori forti, che sono quelli dell'energia, dello spirito, contrasti, insomma, vedo coerenza nel dialogo interiore ed esteriore di Loretta tra quello che scrive e quello che lei ha detto prima, ho buttato giù il colore. Sì, sì, l'ho detto proprio così. Ecco, tra lo scrivere e il mettere giù così il colore. Io direi il dipingere, creare, ma insomma sono cose tue, quindi... No, ecco, c'è questo nes, c'è questo filo logico, lo chiamerei. È una delle tante modalità che ognuno di noi ha per gestire, è un termine brutto, per accogliere tutto quello che c'è all'interno senza scappare. Voi potete immaginare verso voi stessi la credibilità che acquisite quando mettete a fuoco quello che state provando, aprite a voi stessi, lo accogliete, ci state, lo lasciate vibrare e poi lo portate fuori attraverso una modalità artistica. Io credo che questo potremmo definirlo amore verso noi stessi. Perché non è farsi utilizzare, farsi aiutare da qualcosa dall'esterno, è un'autonomia di gestione verso le proprie difficoltà interne. È sano questo, è sano. E verso di noi diventiamo, non so come dire, veri. Mi è venuto in mente, guardando il libro, che parlando di anima, Loretta dedica più di metà del libro intero. Quindi è per quello che forse è così precisa, così profonda nell'esprimere questo concetto, attorno al quale poi ruotano tutti gli altri. Ma se abbiamo diviso il suo libro in tre parti, abbiamo detto spirito, anima e poi corpo-mente, ecco, all'anima ha dedicato più di metà libro. Non so se l'abbia fatto apposta o forse no, però noi che lo vediamo possiamo capire quanto era importante per lei, quant'è importante ancora parlare, comunicare, incontrare l'anima. Veniamo adesso alla terza parte invece del libro, quello che appunto parlerà di corpo-mente. Scendendo oggi da Cavalese a qui, Loretta mi ha detto, tra le altre cose, insomma, parlavamo un po', che il suo libro, apposto, così, ha dedicato uno spazio, nel libro, l'ha scritto un anno fa, ha dedicato uno spazio relativamente piccolo al corpo. E io l'avevo notato, gli ho chiesto perché. Mi ha detto perché non ero ancora pronta, ma oggi, adesso, questi giorni, e quindi anche prossimamente, sta dando molta importanza invece al concetto di corpo, a cos'è, come lavora, cosa sentiamo, al fatto che può autorigenerarsi, autoguarirsi. Insomma, adesso ho capito che la sua mente non è più incentrata solo nello spirito, ma c'è questo nuovo enigma che la sta un po' colpendo in modo particolare, quello del corpo. E quindi lascio la parola ad Anika e introduciamo proprio l'ultima parte del libro. A descrizione di uno dei dipinti, Loretta escrive. Ricordo quando il sipario è calato sulla scena della vita. Tutto si è spento in me. Nel silenzio ascolto il mio vuoto. Sono spenta, infelice e delusa. Il sistema vitale è bloccato. Mi manca l'aria e l'energia. Non ho la forza per stare nella vita e sono certa che questo è uno stato mio che riguarda il mio modo interno di reagire agli eventi esterni. Ma forse è anche altro. Il mio bisogno di circondarmi e di stare soltanto con persone alleate che mi vogliono bene mi limita molto. Voglio imparare a stare sulle mie gambe da sola in qualsiasi circostanza che la vita mi propone, conflittuale e non. Di questa forma di dipendenza non ne posso più. Basta con il bisogno del consenso, dell'approvazione, di conferme di gradimento e di essere amata dall'esterno. Basta. Loretta, dici subito qualcosa su questo, che vedo che ti ha un po' colpito la lettura. Sì. Allora, io nell'esplorazione delle mie interiorità ho trovato anche tante leve che mettevo in atto, degli automatismi proprio, che mettevo in atto quando mi trovavo in difficoltà. Uno di questi automatismi era cercare sempre di avere il consenso dell'esterno, di muovermi, di parlare, di agire in maniera da rendere felici gli altri. Molto faticoso, eh? E non era rendere felice me. Ma mi riusciva parecchio bene rendere felici gli altri, perché quando ci si dona agli altri sono molto felici. Questo però non è essere leali con se stessi, non lo è. E quindi quando ho visto con grande lucidità questo mio atteggiamento, ho provato a cambiarlo. come ho provato a cambiare il mio atteggiamento che riguardava il giudizio verso me stessa. Ho provato a cambiarlo. Ero stanca. Lavorando su queste cose mi è stato molto d'aiuto studiare una forma energetica interna che abbiamo tutti noi esseri umani, e io lo chiamo nel mio modo, ma ognuno lo chiama nel suo, che è un sabotatore interno. La nostra cultura religiosa lo chiama il diavolo. È proprio una nostra parte che ci separa, prima di tutto noi da noi stessi, poi noi dagli altri, poi noi dalla vita, poi noi dai nostri veri desideri, poi noi dalle persone che ci sembra che abbiano fatto uno sgarbo. Ci sa fare molto questo divisore, lui divide. Dicevamo prima che noi siamo immersi nell'unione e nell'amore, ma c'è qualcosa in noi che ci porta sempre ad avere con noi anche la sensazione della separazione. E quando l'energia, la nostra energia cala e siamo veramente senza energia, possiamo essere certi che lui ha succhiato tutta l'energia che voleva. E siamo belli scarichi. Quando abbiamo la sensazione interna di rifiutare, di chiudere verso gli altri, verso l'esterno, anche di fronte, per carità, a offese, tutto quello che vogliamo, ma quando noi mettiamo in atto questa cosa, possiamo essere certi che è il nostro separatore interno. Io ho fatto un lavoro nel quale l'ho inserito in altri 3 maestri e quindi accolgo anche lui, come tutte le altre parti, ma sono diventata molto spietata nell'ascoltarlo dentro di me. E il mio lavoro è sempre quello di diventare sempre più lucida per individuarlo. E quando riesco a individuarlo, che cosa faccio? Semplicemente mi fermo e non faccio nulla. Ma so dove sono e cosa sto attivando dentro di me. Perché, come dicevamo prima, il mondo interiore è un mondo molto attivo. Noi agiamo da dentro e poi con le parole e poi con le azioni. Ma noi i movimenti più importanti, quelli più grandi, li facciamo da dentro, noi con noi. Lì si gioca la partita. La domanda è molto semplice e molto secca. Questo sabotatore che tu nel libro chiami avversario, come si fa da avversario renderlo alleato in qualche modo, renderlo ex avversario? Credo che ci sia una via sola, la consapevolezza di quello che accade in quel momento dentro. Se io faccio un esempio, ho un conflitto forte con la Marina e la Marina mi dice delle cose bruttissime, ma proprio brutte tanto, io dentro sentirò qualcosa che mi dice: chiudi, mandala a fana, guarda chi è così e colà. Allora la consapevolezza di sentire in quell'istante dentro di me che c'è questa mia parte che mi invita a fare questo, la consapevolezza, la lucidità è l'unica via. Perché mentre io lo sento posso scegliere di stare ferma o di fare diversamente. Ma finché io non mi rendo conto con lucidità che sto sentendo qualcuno, qualcosa che mi invita a fare questo, non ho consapevolezza. C'è tutto un calderone dentro di me. Ti ho risposto? Sì, direi di sì, anche se tu lo sai, io capisco sempre fino a un certo punto quello che Loretta ci dice, perché sono cose che vanno veramente un po' pensate, ripensate, elaborate. Comunque le ho descritte molto bene. No, certo. Io finirei, non per chiuderlo il cerchio, ma per aprirlo, finirei con una domanda finale, ultima, prima di lasciare la parola a voi, poi se volete chiedere qualcosa, se volete interagire con Loretta. E ti chiedo, proprio per aprire il cerchio, ma tu, in definitiva, dopo tutto questo, con questo e oltre a questo, chi sei? Chi sei? Perché, insomma, hai parlato del tuo rapporto con te stessa, conosci te stesso, hai anche ricordato concetti filosofici importanti. Chi sei, Loretta? Ma in fin dei conti, io sono una persona che, quando ha potuto incontrare se stessa, si è resa conto, io mi sono resa conto, di avere una grande facilità a percepire il mondo dello spirito, non solo lo spirito del mio essere, ma anche lo spirito all'esterno, lo spirito degli alberi, dei fiori, di tutta la meraviglia che abbiamo intorno. Io ho questa naturale capacità e credo di avere proprio il dovere di dargli valore a questa capacità e il più possibile di poterla portare e trasmettere, come oggi, ad altre persone, per essere, come dire, il testimone che non solo l'amore c'è, ma lo spirito c'è. Grazie. Lascerei la parola a voi, se volete parlare con Loretta, chiederle qualcosa che vi è sfuggito, oppure qualcosa che volete, che vorreste sapere per approfondire un po' la cosa. Il suo libro, come vedete, è un libro semplice nell'apparenza. È un libro dinamico, c'è dentro arte, c'è dentro poesia, ci sono dentro tutte quelle cose che una donna, non sto dicendolo insomma, ma una donna forse sente in modo diverso e forse dal mio punto di vista forse anche di più. Quando lei poco fa parlava che a un certo punto della sua vita ha smesso di fare tutto quello che faceva comodo agli altri, eccetera, io ho visto chiaramente la mia storia, insomma, mia mamma, ma anche mia nonna, insomma, soprattutto le donne che ho avuto attorno in famiglia. Chiaro che hanno vissuto esattamente così per anni, forse per sempre. Però dai, le cose stanno cambiando, spero che stiano cambiando. Non sempre, purtroppo, ma spero stiano cambiando, anche perché le donne sono più forti di prima e l'uomo forse più debole di prima. Però ecco, Questo concetto del liberarsi, dell'agire, del fare per il compiacimento degli altri mi è piaciuto tanto e lo trovo molto, molto femminile oggi. Femminile con la F maiuscola, proprio femminile nel senso di profondità. Se avete da chiedere o da parlare con Loretta, fatelo, che lei vi risponderà volentieri. Anche senza microfono. E permettetemi di venire qua, perché non è stato bello per me stare dietro questa scrivania oggi. Sono sempre abituata a stare assieme alle persone. E quindi sono qua, e se avete una domanda, anche piccola, sono felice di potervi rispondere.